In questo mercoledì 7 settembre le aperture sono tutte dedicate, per la verità, sulla manovra, le novità. L'IVA sale al 21%, prelievo sui super ricchi, così apre il Sole 24 Ore, che dedica anche oggi tante pagine alla manovra, come è stata modificata nell'ultima versione, ma non è quella definitiva. Per il Corriere della Sera, IVA al 21% e prelievo sopra i 300.000 euro. Per Repubblica, aumenta l'IVA, torna la super tassa. La Stampa, IVA più cara e tassa sui ricchi. Per il Giornale, ci siamo, ecco chi paga, manovra pronta, era ora. Il Secolo XIX, donne in pensione più tardi. Per Libero, sale l'IVA, gli sprechi non calano. Per il Messaggero, sale l'IVA, torna la supertassa. Ma vedete che i titoli praticamente sono tutti simili. Per Avvenire, quarta versione, ovviamente della manovra, l'Unità. La foto dello sciopero di ieri, salviamo l'Italia, successo dello sciopero CGIL. Per il Manifesto, anche qui una foto a tutta pagina delle bandiere della CGIL che sventolano, la manovra giusta. Il Fatto Quotidiano è l'unico quotidiano che si dedica nell'apertura a che cosa? Una cosa diversa, vale a dire le intercettazioni. Il terrore corre sul filo e ci sono le foto di Berlusconi e Giampaolo Tarantini con un'infografica di due telefoni, come se si parlassero al telefono, perché è un'altra vicenda di cui si parla molto. Da cosa voglio partire però come segnalazione? Beh, il Corriere della Sera mette in prima pagina un pamphlet che esce oggi nelle librerie. Gli autori sono i celebri autori della casta, vale a dire Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Il titolo del pamphlet è Licenziare i padri eterni, vitalizi d'oro, i 196 milioni ai politici. Eccola qui la notizia che ho trovato per mettervi di buon umore al mattino mentre state andando al lavoro. Come Achille, pie veloce, scrivono Rizzo e Stella. L'operaio Ernesto Vernacchia insegue da anni la pensione e quella via via si allontana. Immaginate la sua rabbia e i diritti acquisiti? Risposta dello Stato, è il destino, si metta l'animo in pace. La storia di questo pensionato dello stabilimento Fiat Irisbus è raccontata in questo pamphlet come esemplificativa di una vicenda distorta. Raccontano Stella e Rizzo. Vernacchia, 55 anni, più di 35 di contributi, le regole in vigore fissano come requisito per la pensione di anzianità 57 anni di età e 35 di contributi, accetta di andare in mobilità, la prospettiva è chiara, un sussidio di 4 anni, il licenziamento, il passaggio morbido in pensione, ma quando arriva a 57 anni e inoltre la sua brava domanda all'INPS, se la vede rifiutare. La finestra del 1 gennaio 2011 non c'è più, le regole sono cambiate e lui dice «e i diritti acquisiti? Già». Scrivono Stella e Rizzo, valgono solo per i politici. Sentite per esempio Gerardo Bianco, ex segretario del PP, che ha scritto in qualità di presidente dell'Associazione Parlamentari Cessati dal Mandato un paio di accorate lettere ai colleghi in servizio, lettere illuminanti. Per cominciare, a proposito del problema delicatissimo e demagogicamente agitato in questi giorni che riguarda lo status del parlamentare e il suo futuro, tuona che l'indennità e il vitalizio, strettamente connessi nella loro funzione di garanzia della libertà di deliberare, sono conseguenza diretta del dettato costituzionale, come previsto negli articoli 67 e 69. Il vitalizio, scrive l'ex onorevole Bianco, non è una pensione, ma un'assicurazione di vita rivolta a garantire anche nel futuro l'indipendenza del parlamentare. A farla corta, con tutto il rispetto per chi lavora, ogni paragone è inaccettabile, perché l'indennità parlamentare, nata col suffragio universale, è l'essenza di una democrazia non elitaria e della libertà di chi rappresenta il popolo, ed è finalizzata a garantire il pieno libero esercizio del mandato in condizioni di eguaglianza per tutti i parlamentari. Il linguaggio è molto pomposo, ma il succo è questo: i vitalizi non si contano e non si toccano, i diritti sono acquisiti. E appunto Stella e Rizzo in questo pamphlet Vitalizi d'oro dicono che ormai i vitalizi sono arrivati a pesare nel 2011 sui bilanci di Camera e Senato per un totale di 196 milioni di euro e continuano ad aumentare, ovviamente, nonostante l'adeguamento automatico sia stato congelato, 15 milioni in più rispetto al 2006. Comunque, tutto nel pamphlet Licenziare i padri eterni, l'Italia tradita dalla casta da oggi nelle librerie. Due segnalazioni prima della pubblicità riguardano i matrimoni e storie di matrimonio. Peter Bescape subito mi guarda. Allora, dalla stampa, punito il marito mammone, divorzio con colpa e niente figlio. È il professor Carlo Rimini, che insegna diritto privato a Milano, che ne scrive a pagina 25. La Cassazione, in una sentenza depositata nei giorni scorsi, ha affermato che è giusto pronunciare la separazione con addebito al marito nel caso in cui si sia dimostrato che la moglie è stata vittima di manifestazioni di disprezzo da parte della suocera. È un classico di alcuni matrimoni. La suocera appare sempre più insistente. Vivevano vicini, praticamente in una casa bifamiliare. La suocera che mette sempre più becco nel matrimonio del figlio e il figlio che non riesce ad arginare la madre, e per questo il matrimonio va catafascio. Per i giudici e la Cassazione, l'uomo non è stato in grado di arginare sua madre, di arginare dunque la suocera per sua moglie, e quindi deve pagare, punito il marito mammone. Mentre dalla Francia, un'altra vicenda raccontata dal giornale, questa più terra a terra: non fa sesso con la moglie che chiede il divorzio ed è costretta a pagare i danni. Una donna ottiene il divorzio e un risarcimento dal marito perché da anni costui le negava i rapporti intimi. Racconta dalla Francia, pagina 21, il giornale: all'origine del divorzio l'assenza di rapporti intimi. Il codice civile francese prevede che i rapporti sessuali siano un dovere matrimoniale per le coppie sposate. I giudici hanno aggiunto che sono l'espressione dell'affetto reciproco. E così per il marito, che pare da 10 anni, niente, oltre al danno, pare la beffa. La pubblicità. 24 mattino. Alle 7:33 minuti, eccoci allora a continuare la lettura dei giornali e dei quotidiani in edicola. Ovviamente ci dobbiamo concentrare sulla manovra, come titola Avvenire nuova versione, e d'altronde ogni giorno si cambia, non è detto che sia anche la versione definitiva. Ma certo, per avere tutti i dettagli, il Sole 24 Ore dedica diverse pagine a questo. La manovra riparte dall'aumento dell'IVA, per esempio leggiamo a pagina 3, Marco Mobile, Marco Rogari. Allora, vediamo quelle che sono le ultime novità partorite dalla maggioranza in un maxi emendamento. Aumento dell'IVA ordinaria dal 20 al 21%, ripristino del contributo di solidarietà, ma solo sopra i redditi superiori ai 300.000 euro e con un'aliquota del 3%. Anticipo dal 2016 al 2014 del meccanismo per alzare gradualmente l'età pensionabile delle lavoratrici private da 60 a 65 anni, ma anche attenuazione del dispositivo sul carcere per gli evasori fiscali, per far scattare ora le manette al già previsto superamento della soglia di 3 milioni di euro dovrà corrispondere anche il 30% del volume d'affari. Insomma, questo è il mini pacchetto di correttivi alla manovra su cui alla fine la maggioranza è riuscita, non senza tensioni, fanno sapere Mobili e Rogari, a trovare un'intesa, a dare una risposta anzitutto all'appello di lunedì del capo dello Stato di adottare subito misure più robuste, ma anche una risposta alle sollecitazioni del governatore di Banca Italia e che è anche presidente in pectore della BCE, Mario Draghi. Modifiche tutte confluite in un maxi emendamento presentato in tarda serata al Senato, su cui il governo ha posto la fiducia. Una fiducia autorizzata da un improvviso Consiglio dei Ministri pomeridiano che al termine di giornata è caratterizzata da un nuovo giro di contatti tra Palazzo Chigi, Quirinale, Banca d'Italia, ha riservato un'ultima sorpresa, e che è questa. All'inizio il cosiddetto contributo di solidarietà era fissato a 500.000 euro, invece è stata abbassata a quota 300.000, il tetto sopra il quale far scattare questa super IRPEF. Berlusconi dice: la crisi è grave, dobbiamo rafforzare la manovra e rassicurare i mercati. Sta di fatto che, insomma, intanto è spuntata questa questione dell'IVA, di cui si parlava da tempo all'interno della maggioranza, molti la chiedevano, Tremonti era sempre stato contrario, alla fine evidentemente ha dovuto accettare, così come la questione delle pensioni sono state dovute accettare dalla Lega, partito che da sempre si è espresso quest'estate contro la possibilità di toccare in alcun modo le pensioni. Scrive sempre Marco Mobili a pagina 5 del Sole: alla fine proprio anche Tremonti fa un passo indietro, via libera da subito all'aumento dal 20 al 21% dell'IVA. e per rafforzare i saldi e la credibilità della manovra, alla fine è arrivato il più volte annunciato incremento dell'aliquota ordinaria sull'imposta sul valore aggiunto. Era approdata ieri sul tavolo del vertice di maggioranza anche l'ipotesi di un incremento generalizzato dell'1% del prelievo IVA, comprendendo dunque anche beni e servizi soggetti alle due aliquote agevolate, quella del 4% e del 10%. In questo caso il gettito complessivo avrebbe superato i 7 miliardi. La scelta finale però è stata accantonata, è stata quella di non intervenire, almeno in questa fase, visto che, ripeto, niente è definitivo, sui beni di prima necessità, che oggi sono appunto con l'IVA al 4%, o sui servizi ad alta prestazione di manodopera o su bar, ristoranti e alberghi, che oggi sono al 10%. Dunque al momento c'è il ritocco dell'IVA sui beni di consumo dal 20% al 21%. L'altra questione rispuntata, che poi era stata tolta e poi rispuntata ancora definitivamente, appunto, allora è questo contributo di solidarietà. Chi lo pagherà? I dettagli a pagina 7 del Sole con Gianni Trovati. Sono 34.000 in Italia i paperoni, definiti così nel titolo del Sole 24 Ore, che dovranno pagare questo prelievo di solidarietà del 3% per chi dichiara sopra i 300.000 euro. Una platea limitata, certo. Evidentemente però era ancora più limitata quella dei 500.000 euro. Pensate che sarebbero stati 11.000 i contribuenti interessati dalla prima versione, dunque davvero pochissimi in Italia. Avrebbero portato nelle casse dello Stato appena 80 milioni di euro l'anno. E in ogni caso quindi è stata abbassata l'asticella a 300.000 euro, rispunta questo contributo di solidarietà a pagina 7 del Sole, tutti i dettagli su chi paga. E qualche commento, è ironico Dario Di Vico sul Corriere della Sera, in prima pagina l'editoriale dal titolo "Mettete un punto", scrive Di Vico: "Nessuno a questo punto può offendersi se cominciamo a chiamarlo il governo Penelope. Come la sposa di Ulisse, anche l'esecutivo di centrodestra presieduto da Berlusconi ha cucito, disfatto e ricucito la tela della manovra. Siamo arrivati al quarto restyling. A questo punto è solo da pregare che ci risparmino il quinto e che approvino velocemente il provvedimento per tamponare la crisi di credibilità in cui siamo caduti." Dunque molto duro Dario Di Vico, ma guardate anche giornali che sono politicamente vicini al governo. Libero, per esempio, con il suo direttore Maurizio Belpietro, fa un editoriale nel quale per la verità in tutta la prima parte critica ancora e duramente lo sciopero della CGIL di ieri, ma poi Belpietro nella seconda parte dell'editoriale, dal titolo "Va bene per tirare avanti, non si sa fino a quando", racconta e scrive che questo sia un periodo confuso dove si fatica a capire cosa stia accadendo. Lo dimostra anche la manovra zigzag del governo: non passa giorno che dopo una marcia avanti ci sia una marcia indietro. Alla fine raccapezzarsi tra i mille proclami è dura anche per chi come noi li segue per mestiere. A cosa serve per esempio il contributo di solidarietà a 300.000 euro se non a fare un po' di demagogia? Non è dato a sapere. In Italia le persone che dichiarano al fisco 1 milione di euro sono 796, quelle che ne incassano 300.000 sono 34.000. A cosa serve far pagare loro una tassa del 3%? Di certo non a risanare i conti pubblici. Anche sul resto c'è poi da ridire, scrive Belpietro. Toccare le pensioni delle donne non è una gran novità, ce lo chiede da tempo l'Unione Europea. A servire era un provvedimento che le anticipasse e servisse a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2014. Inoltre, il pezzo forte della manovra riguardava tutti i vitalizi di anzianità, non solo quelli delle signore. Risultato, anticipando di un paio d'anni le misure che riguardano l'altra metà del cielo, si lasciano invariate tutte le altre. E sull'aumento dell'IVA poi c'è poco da aggiungere, è una tassa in più che pagheremo ogni giorno in cui compriamo qualcosa. Come dicevamo, conclude Belpietro, purtroppo questi sono tempi confusi in cui ciò che si fa non è detto che sia ciò che serve, ma è probabilmente quanto in quel momento basta al sindacato come al governo per tirare avanti, anzi per tirare a campare. Il problema è fino a quando? E con questa domanda si conclude l'editoriale di Belpietro. Certo, torna la questione politica sullo sfondo di dire fino a quando bisogna andare avanti. Per esempio Pisanu, intervistato da Repubblica, dice: "Berlusconi si faccia da parte", in maniera molto, molto secca e netta. Intervistato da Claudio Tito: "Il Cavaliere faccia un passo indietro, ora serve un governo di larghe intese". insomma uno dei presidi, dei fondatori di Forza Italia, attualmente presidente della commissione antimafia, così anche Casini, che però, intervistato dal Messaggero, insomma fa ruolo di oppositore, dice siamo allo sbando, siamo al disastro, ci vuole un governo nuovo. Le reazioni sono invece politiche, secondo il retroscena della politica. Per Repubblica, a pagina 3, con Francesco Bei, è un Berlusconi che ha deciso in qualche modo di seguire il monito di Napolitano e le parole di Mario Draghi. L'ultima spiaggia del Cavaliere è proprio questa, devo seguire Napolitano e Draghi, racconta Francesco Bei. Di fronte allo scenario attuale, Berlusconi non può permettersi alcun passo falso, convinto che proprio la crisi finanziaria costituisca il terreno ideale per la manovra di Palazzo che punta a scalzarlo da Palazzo Chigi. Allora ha accettato, senza protestare, la manleva di Napolitano e Draghi sulla riscrittura del decreto di Ferragosto. Devo seguire le indicazioni del Quirinale della Banca d'Italia, questo è il virgolettato attribuito a Berlusconi. Vedete che basta passare sulla stampa e la versione è diversa. Sulla stampa Amedeo La Mattina e Ugo Magri, nel loro retroscena pagina 3, raccontano invece dell'ira del Premier. Riguardo che cosa? Proprio al Quirinale. Dal Quirinale un intervento a gamba tesa. Avrebbe potuto ricorrere alla moral suasion, mentre invece Napolitano è entrato a gamba tesa. Si lamentano a Palazzo Chigi, al governo. Pare certo che dietro ci fosse pure Draghi. Stanco di attendere quanto da 2 settimane aveva suggerito al governo, sta di fatto che la minaccia dal colle ha ottenuto il suo scopo. Dunque, se per Repubblica Berlusconi si è adeguato, vista la situazione, al monito del Quirinale, per la stampa invece l'ha, come dire, ingoiato come un boccone amaro. Anche per il Foglio, invece, il Foglio è nella versione più vicina in questo senso a quella che dice Repubblica. La paura della tempesta perfetta sveglia l'Italia ma fa tremare l'euroarchitettura, con Berlusconi che lunedì sera, scrive il Foglio, ha accettato la persuasione coercitiva di Napolitano, che ha aiutato il Cavaliere. Le modifiche alla manovra sono blindate, ma dice il Foglio, il Cavaliere, a dire il vero, non si è sentito affatto coartato, anzi ha trasformato il Presidente della Repubblica in un argomento invincibile da contrapporre alla flemma di Tremonti e alla cocciuta resistenza di Bossi, che ieri ha dovuto dire sì all'innalzamento dell'età pensionabile per le donne. Insomma, di questa attualità tra l'altro parleremo proprio con il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara, alle 8:20. Io vi ricordo che c'è anche il sondaggio, se volete, sul nostro sito, sul sito di Radio24.it, nella nostra pagina 24 Mattino. Ci concentriamo su quello che ha detto Angela Merkel, che ha detto l'Italia in pratica rischia come la Grecia. Vi chiediamo, siete d'accordo con la posizione oppure una posizione davvero sbagliata e francamente pessimistica? Intanto sullo sfondo della manovra c'è anche tutta la vicenda intercettazioni, la vicenda dell'inchiesta di Napoli che ha portato all'arresto di Tarantini, della moglie, e invece rimane latitante Walter Lavitola che dall'estero fa una nota ripresa da tutti i giornali. Il Premier sapeva di fatto che i soldi erano per Tarantini, cioè dice Lavitola, mi muovevo su mandato, su ordine del Premier a dare questi soldi a Tarantini. Dalla latitanza, scrive Fiorenza Sarzanini a pagina 29 del Corriere, il faccendiere Walter Lavitola manda a dire che non si è mosso di sua iniziativa ma su indicazioni di Berlusconi, e per negare l'accusa di essere un ricattatore assicura che lui e il Premier erano d'accordo e fornisce anche una serie di indicazioni per dimostrare quanto stretto sia questo rapporto. La linea insomma è chiara, è stanco di passare per l'uomo nero. Posso solo affermare che il presidente Berlusconi mi ha chiesto di aiutare Tarantini e mi chiese anche di assisterlo sul piano personale perché aveva intuito lo stato di afflizione in cui versava. Ma la vicenda e la domanda che tutti si pongono a Bari, una Bari che pare, la Bari bene, no? Diciamo da 2 giorni, pare sul rischio di essere terremotata, queste sono le parole che avrebbe usato in un verbale Tarantini, se escono le intercettazioni sarà un terremoto. Anche per la Bari bene, per le persone che avrebbero frequentato il Presidente del Consiglio. Infatti Goffredo Buccini sul Corriere dice a Bari in un certo ambiente circola questa domanda. Ma tu c'eri? I timori delle signore di Bari. E invece il Fatto Quotidiano, da cui ripartiamo dopo il traffico, dice, e titola in prima pagina, il terrore corre sul filo perché c'è il rischio dell'arrivo, in questo clima politico molto disteso, di nuove intercettazioni. E allora 7:47 minuti, il titolo di pagina 4 del Fatto Quotidiano è questo: fino all'ultimo squillo, dimmi Giampi, tra Berlusconi e Tarantini una hotline riservata alle escort e ai festini con le pagelle e le tariffe. Questo racconta Antonio Massari. Per la verità, oggi di intercettazioni non c'è nulla, non c'è granché, se non questa minaccia, racconta anche Repubblica, succederà il terremoto, quando usciranno, conversazioni che, scrive anche Repubblica, sono punteggiate di commenti sulle doti delle ospiti che già sono state a Palazzo Grazioli. E per l'Unità, pagina 17, c'è anche una data nella quale tutto questo potrà essere reso pubblico, vale a dire il 15 settembre, pubbliche le chiamate tra Giampi e il Premier, racconta Ivan Cimarusti a pagina 17 dell'Unità. Nel fascicolo, il fascicolo sarà reso pubblico il 15 settembre, sembra che siano numerose le intercettazioni scabrose per il Presidente del Consiglio. Staremo a vedere. Certo, è un momento in cui la politica corre sul filo degli sms, dei messaggi, delle intercettazioni, dell'origliare, perché guardate anche qui, intanto un verbale che viene anticipato solo dalla Stampa con Paolo Colonnello, il cronista di giudiziaria, che riguarda Lele Mora. Vi ricordate Lele Mora ancora in carcere? Mora: ho dato a Fede i soldi di Silvio. Questo è uno sviluppo dell'inchiesta. La vicenda invece, questa è la vicenda Ruby. Il direttore del TG4, racconta la Stampa, avrebbe preso 1.110.000 euro di commissione su 3 milioni di prestiti forniti a Lele Mora. E questo è il verbale di che cosa? Del verbale in carcere di Lele Mora. Quando Spinelli mi ha consegnato la seconda tranche di assegni per un importo complessivo di 1.500.000 euro, mi sono confidato con Gentile. Prima di tutto gli ho detto: se questi soldi fossero tutti a mia disposizione potrei sistemare molte cose, ma purtroppo quasi la metà la devo dare a Fede. E ricordo che questa persona con cui parlavo mi disse: ma capo, è uno strozzino. Insomma, questa è l'accusa. Io a quel punto, dice Lele Mora, gli ho raccontato di come era andata a finire con il precedente finanziamento di 950.000 euro, mi sono sfogato davvero con lui, gli ho raccontato per filo e per segno come erano andati i fatti. Insomma, scrive Paolo Colonnello, dietro la bancarotta fraudolenta di cui ha accusato Lele Mora emergono particolari che ricordano molto da vicino la storia anche di Giampaolo Tarantini e disegnano la figura di un presidente del Consiglio generoso coi personaggi che animavano le sue corti romane e milanese, con una differenza però che Lele Mora accusa Emilio Fede di averlo strozzato attraverso i prestiti di Berlusconi. Questo racconta la Stampa. SMS anche che pare inguaiano invece sull'altro fronte il Partito Democratico, Filippo Penati, perché il Corriere della Sera racconta pagina 27 di come il giorno in cui la Corte dei Conti mise l'affare Serravalle, della vendita della Serravalle, sotto controllo, inizia, racconta il Corriere con Giuseppe Guastella e Luigi Ferrarella, una serie di scambio di sms, telefonate frenetici tra le persone, tra cui anche Filippo Penati, che sono sotto attenzione per quell'affare. Penati, sms, incontri riservati sulla Serravalle, i contatti per una linea comune dopo la richiesta di 80 milioni della Corte dei Conti. Tra l'altro c'è anche questo sms, francamente da spiegare, insomma, un po' strano, che il portavoce di Penati, Franco Maggi, manda allo stesso Penati dopo un incontro. L'sms è questo: niente scarpe, niente ciabatte, niente mutande. Una frase, sinceramente, un sms abbastanza criptico, che però, scrive Luigi Ferrarella, Penati decodifica subito e risponde così: e la madonna, nessun problema, insomma. Però gli inquirenti ovviamente cercano di capire a che cosa si riferisse il suo portavoce quando scrive niente scarpe, niente ciabatte, niente mutande. SMS anche di Italo Bocchino, che quest'estate è stato accreditato di un flirt con Sabina Began, la peregina. Ragazzi, la politica anche questo, le leggo dai giornali, sono pieni di paginate. La Began svela ora gli SMS di Italo Bocchino, lo fa su Vanity Fair e si becca Vanity Fair la querela di Italo Bocchino, perché Sabina Began ha spiattellato gli SMS che Italo Bocchino gli ha mandato quest'estate e anche adesso, anche SMS del tipo mi vuoi perché te lo chiedo io o perché mi desideri? Oppure io mi sono aperto con te, sto bene, mi piaci, ma sono sensibile, quando mi tratti male soffro. Tutti questi SMS ora spiattellati su Vanity Fair. Tra l'altro l'SMS, qualcuno dice che può far più male a Italo Bocchino, è questo. Quando io gli ho detto a Bocchino, tu odi Berlusconi che invece io adoro, Bocchino mi ha replicato, non lo odio, anzi lo stimo e sono come lui. Ma come Italo Bocchino, sono come lui, come Berlusconi avrebbe detto a Sabina Began, che insomma dopo dichiarazioni nelle quali Italo Bocchino invece è sempre stato molto duro nei confronti di Berlusconi, soprattutto da un paio d'anni a questa parte. Due segnalazioni per concludere, la prima è questa, viene dal comune di Milano, ne parlano sia Libero sia il Corriere della Sera. Allora, cosa c'è di più odioso che parcheggiare, uno dei gesti civilmente più odiosi, di parcheggiare la propria auto sui posti riservati agli invalidi? Beh, è un'azione certamente dal punto di vista del senso civico odioso. Cosa ha deciso allora il comune di Milano? Parcheggi nel posto dei disabili, ti mandiamo la finanza. Il principio è questo, racconta Antonio Spampinato su Libero. Tu parcheggi sui posti dei disabili? Hai un senso civico minimo, quindi come minimo sei anche un evasore fiscale. Per questo ti segnaliamo, oltre a darti la multa ovviamente e toglierti i punti dalla patente, ti segnaliamo all'Agenzia delle Entrate per i dovuti accertamenti. E Beppe Severnini, in un commento sul Corriere della Sera, dice giusto così, rubi il parcheggio a una persona disabile, Milano ti fa il controllo fiscale. Certo, c'è da dire che di sti tempi per fare cassa se ne inventano davvero tante. Ora il giornale radio.